Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Fine Ramadan per i fedeli della comunità islamica di Monfalcone, preghiera ai margini dei luoghi vietati dal comune. La diatriba prosegue. Segnali positivi della produzione industriale in provincia di Udine, torna a crescere nel quarto trimestre dell'anno. Trieste, oltre 7.300 firme per la chiusura del Silos saranno inoltrate al presidente Mattarella in città venerdì. E l'Università di Trieste risulta tra le migliori al mondo per gli ambiti scientifici, lo dice la classifica globale degli Atenei di un'autorevole società di consulenza. Mancano 300 insegnanti di ruolo di matematica, intanto a Trieste va in scena la manifestazione La Matematica dei ragazzi. Festa della polizia con mezzi e strumenti in piazza, una lezione all'aperto rivolta ai giovani. Pordenone, il via al Docs Fest, colloquio con la regista iraniana svedese Nahid Persson. Francesco Moser, il Giro d'Italia delle 77 quando la corsa rosa passò per Gemona. Le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Dario Ronzoni. La fine del Ramadan, occasione di festa per la comunità islamica, ma non si chiude a Monfalcone, dove è più folta la rappresentanza dei musulmani, la diatriba con il comune sui luoghi di preghiera. Sentiamo dove i fedeli si sono riuniti questa mattina. La fine del Ramadan, non quella del braccio di ferro tra il sindaco di Monfalcone Cisint e la comunità islamica. Il periodo di digiuno, dall'alba al tramonto per un mese circa, si è concluso. È arrivato il tempo dell'Id al-Fitr, la festività che segna l'inizio del Shawwal, decimo mese del calendario lunare islamico. A Monfalcone, dove i musulmani sono circa il 20% della popolazione, le celebrazioni si sono svolte nel piazzale esterno del complesso Exardi di via Primo Maggio e in via Duca d'Aosta. Qui il Consiglio di Stato ha confermato l'ordinanza di primo grado del TAR nella parte in cui ha respinto l'istanza volta a utilizzare i locali delle associazioni culturali a fini di culto. Negli ultimi giorni la richiesta della comunità islamica al Consiglio di Stato di disporre la nomina di un commissario dopo che sono state rifiutate le proposte di siti alternativi fatte dal Comune. Buconate, rappresentante della comunità islamica di Monfalcone. A parte il fatto che non sono luoghi veramente appropriati, come avete potuto vedere, per poter pregare abbiamo bisogno di determinate condizioni, determinate concentrazioni per poter fare la preghiera serenamente. Sicuramente non è in un parcheggio in piena zona industriale che si possa fare, oppure lì della Rocca. Anche a Trieste la comunità islamica si è riunita in preghiera. Erano circa 2.000 le persone presenti alla cerimonia al campo sportivo di San Luigi, condotta dal presidente della comunità islamica di Trieste, Akram Omar. All'evento aperto al pubblico ha preso parte anche il rabbino Eliyahu Alexander Meloni. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. I temi dell'economia alla fine di un anno segnato dall'impatto della situazione geopolitica e dal calo del PIL in Germania, primo partner commerciale delle imprese friulane, la produzione industriale in provincia di Udine torna a crescere segnando un più 2,7% nel quarto trimestre 2023. Segnali di recupero per la manifattura in provincia di Udine. Nel quarto trimestre 2023 la produzione industriale è cresciuta del 2,7% rispetto al terzo trimestre e dello 0,1% rispetto allo stesso periodo del 2022. I dati sono dell'indagine congiunturale condotta dall'Ufficio Studi di Confindustria Udine su un campione significativo di imprese manifatturiere associate. L'utilizzo degli impianti produttivi è passato dal 73,5% del terzo trimestre al 78,9% del quarto e le aspettative delle imprese migliorano sulla scorta dell'incremento degli ordinativi che hanno registrato una variazione congiunturale positiva del 13,7%. Analizzando i singoli comparti, migliora la siderurgia, gli alimentari, la carta, mentre sono in calo la meccanica, legno e arredo. Il 2023 è stato un anno che, nonostante l'impatto delle tensioni geopolitiche, ha registrato alcuni segnali di ripresa, come la bassa inflazione, 0,8% a febbraio rispetto al più 11,3% di ottobre 2022. Da rimarcare anche l'accelerazione del commercio mondiale, più 0,4% nel 2023, secondo il Fondo Monetario Internazionale, più 3,3% nel 2024. Poi ci sono stati gli investimenti del PNRR e il taglio dei tassi previsto dagli analisti per per il mese di giugno. Anche il prezzo del gas al momento resta in flessione, 28 euro a megawattora dai 35 di fine 2023. Anche la Germania, primo partner commerciale delle imprese udinesi, dopo aver registrato lo scorso anno un calo del PIL dello 0,3%, dovrebbe segnare nuovamente una dinamica positiva. Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. I pensionati attivi hanno promosso a Trieste una raccolta di firme per la chiusura del Silos, raccolta arrivata a quota 7.344. Saranno consegnate al prefetto con la richiesta di farle avere il presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in città venerdì. Questa mattina al Circolo della Stampa è stato illustrato il documento da inoltrare alle autorità. Sentiamo quali sono i contenuti da Pierluigi Sabatti. Nel documento le richieste sono sostanzialmente di tre ordini. Il primo è quello di organizzare finalmente l'accoglienza in questa città, cioè basta con l'emergenza, si tratta di creare una struttura che sia in grado di accogliere la gente che arriva, perché la rotta balcanica sarà seguita purtroppo nei prossimi anni e quindi ignorarla è sbagliato. Questo è il primo, assolutamente, cioè organizzare una struttura che funzioni. Secondo, le procedure, perché le procedure sono importanti, cioè le procedure per dare via libera ad andare a queste persone in altri paesi d'Europa è fondamentale, perché l'80% di coloro che arrivano qui vogliono andare in altri paesi d'Europa, ricongiungimenti familiari, situazioni diverse, per cui se si sveltiscono le pratiche si ha meno gente da tenere qui e da organizzare. Terzo, i giovani, ci sono moltissimi giovani che arrivano. Questi giovani vanno in qualche modo valorizzati, invece di lasciarli ciondolare in giro, vanno formati sia con la lingua sia con i mestieri, per esempio. Abbiamo bisogno di giovani che lavorano? Sì, e allora cerchiamo di far sì che questi giovani rimangano qui. E allora sì che saranno un'opportunità e non un peso. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. E sempre a Trieste, in pochi giorni, il comitato Maddalena Vive ha raccolto 350 firme per chiedere un'assemblea popolare dove aprire un confronto tra circoscrizione, comune, regione, ATER, abitanti e commercianti sul futuro dello spazio pubblico dell'ex disinfezione di Via Marenzi. La struttura in cui si trovavano le lavanderie a supporto dell'ex ospedale degli infettivi della Maddalena è abbandonato da decenni. Uno spazio con una panoramica vista su tutto il Golfo, ora di proprietà ATER, ma sul quale, denuncia il comitato, hanno messo gli occhi gli imprenditori veneti che hanno recentemente realizzato gli appartamenti di lusso e gli edifici commerciali adiacenti. La prospettiva di vedere privatizzato e cementificato anche quello spazio ha messo in allarme gli abitanti del rione, che in questi anni hanno già perso il polmone verde dell'ex ospedale e stanno chiedendo per questo una sorta di risarcimento con la realizzazione di un anello verde di cui lo spazio di Via Marenzi è uno dei tasselli più importanti. È l'Università di Trieste, una delle migliori al mondo per gli ambiti scientifici, lo afferma la classifica globale degli Atenei della società di consulenza Quacquarelli Simons, che considera 20.000 realtà. Sono le materie scientifiche ad eccellere nelle nostre due università a livello globale, secondo la classifica mondiale degli Atenei della società di consulenza Quacquarelli Simons del Regno Unito, una delle graduatorie più prestigiose e consultate al mondo. È stata appena pubblicata la classifica per materia di studio, che segue quella che nel giugno dell'anno precedente riguardava le università nel suo complesso. L'Ateneo di Trieste è nella classifica delle migliori al mondo in sei ambiti: fisica, astronomia, scienze naturali, medicina, scienze della materia, chimica e biologia. La migliore posizione è in fisica e astronomia, dove l'Ateneo Giuliano risulta tra i 300 migliori al mondo. Udine invece ha solo una materia di studio in questa speciale classifica, agraria, una delle 350 migliori facoltà al mondo. La graduatoria si basa su cinque parametri, tra cui la reputazione accademica e il tasso di citazioni degli studi di ricerca. Il prossimo giugno sarà pubblicata la nuova classifica generale delle università mondiali. L'anno passato sia Trieste sia Udine sono rientrate nelle migliori 1.500, un risultato non scontato dal momento che secondo una stima sono oltre 20.000 le università al mondo. In Italia solo 42 delle 97 totali compaiono nella lista. Trieste tra le prime 700 al mondo, Udine tra le prime 1.200. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. È giunto la terza edizione del bando di Fondazione Cariplo e Fondazione Teleton, che ha portato alla selezione di 14 nuovi progetti di ricerca per un totale di 3.200.000 euro e di 22 gruppi di ricerca coinvolti. In Friuli Venezia Giulia sono stati assegnati 248.000 euro per finanziare un progetto dell'Università degli Studi di Trieste. Eugenio Fornasiero del Dipartimento di Scienze della Vita coordinerà uno studio sui disturbi del neurosviluppo. In particolare il progetto si concentra su un gene specifico la cui perdita di funzione è la causa diretta di una rara e non specifica disabilità intellettiva sindromica, spesso accompagnata da anomalie fisiche. Approfondendo la sua funzione verranno fornite le basi fondamentali per comprendere non solo questo specifico gene, ma anche i meccanismi più generali alla base delle disabilità intellettive rare e delle malformazioni fisiche associate. Il ricordo di Peter Higgs, premio Nobel per la fisica, scomparso ieri a 93 anni, da parte della Scuola Superiore di Studi Avanzati di Trieste, che nel settembre 2013 gli conferì un dottorato di ricerca per i suoi contributi senza pari alla scienza, succedeva un mese prima dell'annuncio del Nobel per gli studi sul bosone. Una figura monumentale nel mondo della fisica teorica, recita una nota della SIS. Il lavoro di Higgs, pionieristico, ha cambiato per sempre la nostra comprensione delle forze fondamentali della natura. Nella sola città di Trieste mancano ben 300 insegnanti di ruolo di matematica, un problema reale che parte da lontano ed è anche nell'ottica di attrarre futuri appassionati di materie scientifiche che torna, dopo lo stop della pandemia, la manifestazione La Matematica dei Ragazzi, 1500 giovani che da tutta la regione hanno partecipato all'iniziativa promossa dall'Università di Trieste. Corde distese a terra che formano un triangolo, il teorema di Pitagora diventa più chiaro e concreto. A salire in cattedra e a spiegarne i principi dei ragazzi di appena 12 anni, all'Istituto Comprensivo di Visione Giulia di Trieste, oltre 1500 ragazzi dai 5 ai 16 anni coinvolti nella manifestazione La Matematica dei Ragazzi, organizzata dall'Università di Trieste. Un'iniziativa nata ormai quasi 30 anni fa e che riprende ora dopo lo stop del Covid con una risposta importante. 16 laboratori pratici preparati accuratamente da 300 ragazzi di Trieste e Monfalcone, mentre i giovani visitatori vengono da tutta la regione. Valentina Beorchia, docente di geometria dell'Università di Trieste, perché è importante, si parla tanto di peer education, cioè i ragazzi che insegnano ad altri ragazzi più o meno della stessa età? Sì, è un'attività molto importante per i ragazzi visitatori e anche per i ragazzi che preparano i laboratori. Per i ragazzi che vengono a vedere questi laboratori è molto efficace, divertente sentire le spiegazioni dei propri coetanei, vedere i prodotti che hanno preparato durante l'anno. E devo dire che poi a monte di tutta questa attività c'è un grosso lavoro che va in verticale, perché c'è la collaborazione tra l'università e le scuole di ogni ordine e grado, e la collaborazione poi tra gli insegnanti stessi e i ragazzini tra di loro, quindi. E l'importanza della matematica, che sappiamo essere una materia che tanti ritengono ostica, ma forse imparata così un po' meno. No, certamente la matematica vista, presentata in modo giocoso, è sicuramente molto più attrattiva, accattivante, ed è poi alla base di tutte le discipline scientifiche, quindi viene insegnata in tutti i livelli scolastici. E abbiamo bisogno di matematici. Certamente, sì. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Si celebra oggi la festa della Polizia di Stato con cerimonie che questa mattina si sono svolte in tutti i capoluoghi. In alcuni casi, come a Udine, sono stati esposti in piazza mezzi e strumenti e sono state illustrate soprattutto ai giovani alcune delle principali attività. È un bilancio positivo quello tracciato dal questore di Udine nel corso della festa per il 172esimo anniversario della fondazione, un bilancio che però continua a far mantenere alta l'attenzione. Sono state 168 le persone arrestate, 2397 le denunce presentate con 815 responsabili individuati, complessivamente 988 le persone denunciate in stato di libertà, di cui 174 i minorenni, 538 i servizi di ordine pubblico effettuati, 103 i DASPO e 25 quelli urbani, 355 i minori non accompagnati collocati in struttura, 25 gli ammonamenti, a cui se ne aggiunge uno per cyberbullismo. Oltre 14.000 gli studenti incontrati nell'ambito del progetto Sapremo, progetto di educazione dei giovani alla legalità. Per quanto riguarda i cosiddetti reati, da codice rosso 21 le persone indagate, 12 misure cautelari eseguite, eseguite, di cui 3 in carcere. Alfredo D'Agostino, questore di Udine. Violenza di genere, in primis reato particolarmente odioso, devo dire, rilevo con piacere favorevolmente che c'è una consapevolezza diversa anche da parte delle vittime rispetto a questo tipo di reato, per cui c'è una maggiore propensione alla denuncia e quindi a uscire, insomma, allo scoperto in qualche modo. E la nostra attività quindi va nel senso di dare il massimo supporto in termini investigativi ma anche umani rispetto alle vittime. Sono tanti anche i minori che sono stati segnalati o arrestati? Sì, ecco, il fenomeno che caratterizza un po' questo periodo storico la città di Udine è appunto la presenza di parecchi minori, alcuni di essi stranieri non accompagnati, altri invece facenti parte appunto della società udinese, per così dire, che si sono resi autori di comportamenti antisociali e alle volte anche di reati per cui li abbiamo dovuti perseguire. E sono stati tanti gli uomini premiati nel corso della cerimonia alla presenza delle più alte cariche. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. In questi giorni ricorre il ventennale della battaglia dei ponti che si svolse a Nassiriya in Iraq, un'operazione importante per il controllo del territorio iracheno in cui ebbero un ruolo fondamentale le forze militari partite dal Friuli. Sentiamo l'intervista al generale Massimo Raccampo, andata in onda nella nostra trasmissione. Buongiorno Regione. Iraq, primavera 2004. Nella città di Nassiriya è stanziata la base italiana della missione antica Babilonia, che ha l'obiettivo di garantire la sicurezza del popolo iracheno e lo sviluppo dello Stato dopo la seconda guerra del Golfo. Il contingente italiano è comandato dalla brigata corazzata Ariete, che ha il suo quartier generale a Pordenone. Il 6 aprile di quell'anno i militari friulani furono impegnati nella battaglia dei ponti, che mirava a riprendere il controllo dei 3 accessi alla città minacciati dalle forze del politico e religioso Muqtad al-Sadr. Fu la prima offensiva dell'esercito italiano dalla Seconda Guerra Mondiale. Il generale Massimo Raccampo. La peculiarità delle nostre truppe, che poi è frutto anche della cultura tipicamente italiana, era quella comunque di avere un approccio molto diretto, molto alla ricerca del contatto con la popolazione, non solo a livello istituzionale ma a livello proprio dell'uomo della strada. La battaglia fu il culmine di una fase iniziata con l'attentato del 12 novembre 2003 contro 2 palazzine dei carabinieri e militari del contingente, che provocò 28 morti, di cui 19 italiani. Da una situazione che sembrava in pieno controllo, in piena gestione, si arrivò a questo shock emotivo che fu veramente anche per noi, che eravamo sul punto di essere immessi in teatro operativo, ci cambiò, soprattutto, ripeto, dal punto di vista emotivo, quella che era la percezione e della missione stessa. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Uno sguardo alla situazione del tempo: abbiamo cielo da poco nuvoloso a variabile su pianura e costa, coperto in montagna, queste le temperature delle 11, a Trieste 22 gradi, a Pordenone e a Gorizia 20, a Udine 18, nell'area montana a Tolmezzo 13, a Treviso 9, a Sappada 1 grado, a Forni di Sopra e sul Piancavallo 8. E ancora in quota abbiamo sullo Zoncolan 2 gradi e 5 decimi, sull'Ussari 1 grado, a Lignano e a Grado 18,5. Queste invece le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia: cielo da nuvoloso a coperto, saranno possibili precipitazioni sparse da deboli a moderate che interesseranno in particolare la fascia occidentale della regione al confine con il Veneto, dove localmente potranno essere anche abbondanti. Quota neve a 2000-2200 metri circa, dalle ore centrali soffierà bora moderata con raffiche sostenute sul Carso e a Trieste. Per domani cielo in prevalenza sereno sulla costa e sulla fascia orientale, soffierà bora moderata con raffiche anche sostenute sul Carso e a Trieste, poi in calo nel pomeriggio, temperatura al di sopra della media del periodo zero termico che in serata tornerà a 3500 metri circa. 12:49, apriamo la pagina della cultura. È una giornata particolarmente ricca di incontri con libri e autori, ne segnaliamo alcuni. A Udine l'Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione e l'Università organizzano la lezione L'immagine del fascismo nel secondo dopoguerra, a partire dal volume Il fascismo è finito il 25 aprile 1945 di Mimmo Franzinelli, edito dalla Terza, con l'autore gli interventi dei docenti Paolo Ferrari e Marco Fucecchi in sala Tomadini alle 17. Nel carcere dei matti delinquenti è il titolo della biografia di Fabrizio Maiello, che è stato rinchiuso in un manicomio criminale, scritta con Franca Garreffa per l'editrice KV. Insieme lo presenteranno a Zugliano alle 18.30 in sala Petris. Domani la presentazione anche a Udine. Dialoghi in biblioteca alla Ioppi di Udine, la presentazione del libro Lettere in scena, Italo Svevo scrive alla moglie e a Pirandello, di Paolo Puppa, che cura anche la lettura scenica. L'appuntamento alle 18. A Trieste, al Circolo della Stampa, alle 17.30 si presenta il volume Angelo Ermanno Cammarata, appunti per una biografia, la vicenda professionale e umana del filosofo e giurista che fu rettore dell'Università di Trieste negli anni del secondo dopoguerra, dal 46 al 52. Lo ha scritto la figlia Marilì Cammarata e lo pubblica Editoriale Scientifica di Napoli. Lo scrittore sloveno Goran Vojnovic è al San Marco di Trieste con il suo ultimo libro, Il collezionista di paure, alle 18. Con l'autore dialogherà Alessandro Mezzenalona. A Gorizia, per il cartellone del libro delle 18.03, Antonella Sbuez presenta il suo ultimo romanzo intitolato Mariam. Al Culturni Dom l'autrice dialogherà con Monica Del Fabbro. E alla libreria Ubic di Trieste un nuovo incontro per il ciclo Incroci Letterari. Alle 18 Sladana Nina Perkovic, giornalista e scrittrice originaria della Bosnia Erzegovina, presenterà il suo romanzo Il funerale di Zia Stana, edito da Voland. Con l'autrice dialogherà Irma Hibert. Parte la 17ª edizione di Pordenone Docs Fest, la rassegna cinematografica dedicata al documentario. A Cinema Zero sono 65 film in programma fino al 14 aprile, con ospiti, incontri con registi e protagonisti dei film, oltre a due retrospettive, una su Basaglia per i 100 anni dalla nascita e una su Bellocchio, documentarista. Il festival sarà anche occasione per parlare di attualità, dalla guerra in Ucraina al conflitto israelo-palestinese, ma anche di ambientalismo, diritti e sport al femminile. Illumineremo storie poco note, ha detto il curatore del festival Riccardo Costantini. Si comincia con il film Son of the Mullah della regista iraniana svedese Nahid Persson, in programma alle 17.45. Sentiamo. The story is about Ruhollah Azam. La regista Nahid Persson Sarvestani con il suo Son of the Mullah apre il Pordenone Docs Fest raccontando la storia di un giornalista attivista iraniano esule in Francia e della sua coraggiosa denuncia del regime degli Ayatollah che gli è costata la vita. They kill all who were against them. Il regime uccide gli oppositori, compreso mio fratello di soli 17 anni, ma continua a farlo con tanti altri e anche fuori dall'Iran. È importante documentare queste storie per far capire ai paesi democratici di prendere seriamente il pericolo, ci dice la regista che oggi vive in Svezia. Non ci sentiamo più sicuri nemmeno in Europa. We are not safe. Le voci del documentario ci portano in viaggio tra diritti civili e delle donne, attualità e conflitti dall'Ucraina a quello israelo-palestinese. Alle 21, serata d'apertura con il premio Immagini del Coraggio a Media, storia di una giovane sopravvissuta alla ferocia dell'ISIS. Marco Fortunato è presidente di Cinema Zero. Questa sera poi avremo Media, il film di apertura, che è già sold out, quindi un bellissimo biglietto da visita per questo appunto 5 giorni di viaggio che ci condurrà in giro per il mondo tra il Cile e la Corea del Nord, arriveremo addirittura in Australia. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Al Parlamento europeo a Bruxelles si è aperta con un concerto della Friuli Venezia Giulia Orchestra diretta dal maestro Paolo Paroni, la serie di eventi per celebrare Gorizia, Nova Gorizia, capitale europea 2025. Nell'evento dal titolo A Dream Without Borders l'orchestra ha suonato brani di Christian Carrara, Vivaldi e Nino Rota. È la seconda volta che un'orchestra italiana si esibisce nel Parlamento europeo. Letture animate per parlare della terza età e il progetto Corner, non metteteci all'angolo, iniziativa culturale incentrata sugli anziani del territorio che prende il via oggi in 7 comuni della Pedemontana. Il nuovo progetto, che mira a sensibilizzare le comunità sui temi della vecchiaia e della fragilità, prevede l'apertura di angoli di lettura con contenuti relativi alla sfera dell'invecchiamento nelle biblioteche di Aviano, Brugnera, Budoia, Canneva, Fontana Fredda, Polcenigo e Sacile. A ogni inaugurazione viene organizzato un incontro con letture animate. Il primo appuntamento oggi è la biblioteca di Canneva alle 17. Al via il tour dello spettacolo teatrale Ungaretti, poeta e soldato, il Carso e l'anima del mondo, di e con Marco Goldin, 80 minuti in cui il critico ripercorrerà la storia del poeta sul Carso tra letteratura, storia e pittura. Nel prologo la voce di Antonella Ruggero con 3 canzoni scritte dallo stesso Goldin e musicate da Remo Anzovino, che le eseguirà sul palco. A Gilberto Colla sarà affidata la lettura di alcune poesie di Ungaretti. L'appuntamento per la prima tappa è Gorizia, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi, alle 20.45, e domani Goldin sarà a Tolmezzo al Teatro Candoni, il 16 aprile a Monfalcone, il 17 tappa a Udine al Teatro Nuovo e poi il 23 a Pordenone al Verdi, unica tappa fuori regione il 15 aprile a Treviso al Teatro del Monaco. L'ingresso per tutte le date è gratuito con prenotazione obbligatoria. E siamo allo sport, la pallavolo, semifinali dei playoff promozione nella 2 femminile, stasera la gara 2 tra la CD al Massons e il Messina. Dopo la vittoria 3-2 in trasferta, le friulane hanno l'occasione di chiudere il confronto. Si gioca infatti alla Tisana, inizio alle 20, e con un successo la CDA accederebbe alla finale. Ciclismo, Francesco Moser e Jonathan Milan saranno gli ospiti speciali della presentazione ufficiale della Mortegliano Sappada, la tappa friulana del prossimo Giro d'Italia. Sarà la frazione numero 19, la terz'ultima, è in programma il 24 maggio. 157 chilometri con una severa salita finale. L'appuntamento di questa sera è al villaggio Bell'Italia di Piani di Luzza. Per Moser, classe 1951, uno dei grandi campioni del nostro ciclismo, è ancora vivo il ricordo di una tappa disputata nella nostra regione. Era il 1977, pochi mesi prima c'era stato il terremoto in Friuli. La corsa transitò in una Gemona ancora devastata. Ecco il racconto di Moser. E mi ricordo c'era stato il terremoto proprio nei giorni prima del Giro, che avevamo fatto il Giro di Toscana, che ho vinto io, che abbiamo deciso con tutti i corridori di lasciare i premi per il terremoto, insomma, perché era una cosa normale fare questo, insomma. Poi la tappa prevista del Giro era Trieste-Conegliano e siccome c'era stato questo evento, diciamo molto brutto perché me lo ricordo benissimo quello che è successo, Toriani ha deciso di fare una semitappa. Siamo arrivati a Gemona in mezzo praticamente alle macerie, c'erano mucchi di roba, di case, di mobili, e siamo arrivati lì su una strada, abbiamo mangiato al campo, diciamo, ha fatto un pranzo lì, abbiamo preparato delle robe perché c'era tutto anche l'assistenza per i terremotati, abbiamo mangiato praticamente con loro e poi siamo ripartiti e siamo arrivati a Conegliano. Sono ricordi che ce l'ho ancora come se fosse ieri, insomma, perché una cosa così non te la dimentichi, insomma. L'intervista era di Paolo Roncoletta e la versione integrale è disponibile sul sito della TGR Friuli Venezia Giulia. Questa edizione è stata realizzata da Dario Ronzoni e Giampaolo Mauro per il coordinamento tecnico, grazie a Mauro Ciccarelli e a Walter Vidonis e grazie a Valentina Veneruso che ha collaborato in redazione. Sono le 12.57, 40 secondi, prossima edizione alle 15. A tutti voi grazie per l'ascolto e buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.